Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, che purtroppo si apre come settimana e si connota come giornata con uno spread che è tornato a livelli altissimi. Ripetiamo da settimane che la differenza tra quanto costa noi indebitarci e quanto non costa invece la Germania, questo è lo spread, è comunque rimasta sempre alta a livelli non sostenibili nel medio e lungo termine, sopra i 400 punti, cioè sotto i 300 possiamo iniziare a ragionare, ma oggi c'è di più, lo spread è tornato ai livelli di inizio gennaio, cioè dopo il calo che ha avuto con la prima misura Salva Italia di Mario Monti, e siamo tornati a 495 punti, e infatti siamo ai massimi dal 16 gennaio per la precisione. Il titolo è il BTP a 10 anni italiano, rende il 6,16%, però da Palazzo Chigi, secondo fonti riportate dalle agenzie, si esclude al momento di avere alcune intenzioni di ricorrere al cosiddetto scudo anti-spread, quello che è stato stabilito nei vertici del 28-29 giugno e quello della settimana scorsa. Non è ancora chiaro il meccanismo, l'implementazione, come si dice in gergo, però i paesi europei alla fine su questo un accordo l'hanno trovato. Buone notizie ce ne sono oggi, sì, perché mentre il debito pubblico italiano è salito ad un nuovo record a maggio, ce lo dice la Banca d'Italia, 1.966 miliardi di euro, le entrate fiscali sono andate bene nei primi 5 mesi del 2012, a 142 miliardi, più 1,14%, ma soprattutto a maggio è risalito l'export, che sappiamo essere da ormai 2 anni, anche 3, l'unico elemento che sta generando un po' di crescita. La domanda interna è ferma e le politiche di risanamento stanno avendo, è inutile girarci attorno, un effetto ciclico, cioè non combattono un ciclo negativo, ma anzi lo aumentano, IMU, IVA e quant'altro, e quindi l'unico elemento che porta un po' di crescita è l'export. Ebbene, nel mese di maggio l'export italiano ha fatto più 4,8 sull'anno precedente e più 1,5 sul mese precedente, su aprile. Le importazioni restano comunque in diminuzione rispetto a un anno fa, meno 4,5%, tant'è che la bilancia commerciale italiana, ossia la differenza tra quanto esportiamo e quanto importiamo, è positiva per 1 miliardo nel mese di maggio. E le borse come vanno? Da qui partiamo con le notizie in breve. Meno 0,60% Milano, meno 0,14% Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,15%. Nella seconda ora del programma parleremo dell'export, perché quando si dice che l'Italia non si merita più di 200 punti di differenza di spread con la Germania, parole del governatore Visco, della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ebbene, lo si dice anche a ragion veduta. Noi abbiamo un altissimo debito pubblico, ma abbiamo anche un altissimo risparmio privato, e abbiamo dei numeri, nonostante la crisi, della nostra manifattura, del mondo, delle piccole e medie imprese, oltre che le grandi, che riescono a esportare, che sono di tutto rispetto, che collocano l'Italia secondo paese in Europa dopo la Germania per esportazioni e per potenza manifatturiera, prima anche della Francia. Ecco perché si dice c'è una irrazionalità nel mercato che colpisce l'Italia come se fosse quasi vicina alla Spagna, quando tutti i fondamentali economici dicono il contrario. Ne parleremo nella seconda ora. In apertura faremo invece lo spread e le tensioni che stanno attraversando il mondo delle commodities, quindi delle materie prime, dovute a elementi anche e soprattutto meteorologici. Le notizie in breve prima di tutto. 349-238-6666 per i vostri SMS. La borsa, dicevamo, meno 0,43, ma bene Fiat oggi, più 4%, media 7 più 1,90, Ansaldo più 1,70 come Pirelli, l'1,20% lo guadagna Salvatore Ferragamo, l'1,1 Campari, l'1% è nel Green Power. Popolare Emilia Romagna meno 3,60, Popolare Milano meno 3,30, Banco Popolare meno 2,40 come A2A e Unicredit e Mediobanca, il 2% lo perde Finmeccanica e anche Ubibanca, l'1,30 il caso di Intesa San Paolo, l'1,1 quello di Mediolanum e di Buzzi Unicem. Euro sotto quota 1,23 a 1,22,47. Petrolio e oro. Beh, il petrolio è in calo, 86,92 dollari in America, New York. Anche l'oro è in calo a 1584 dollari l'oncia. E poi le notizie che arrivano dal Fondo Monetario Internazionale: ha lievemente ritoccato verso il basso le stime sulla crescita mondiale, più 3,9% contro più 3,5% contro un 3,6 nel 2012 e più 3,9 contro un 4,1 nel 2013. Il taglio però è nell'area euro, vedi un po' tu, più 0,7% la crescita media dell'area euro per quest'anno, per il 2013, contro uno 0,9 stimato ad aprile, sempre sul 2013. Nel 2012 invece l'area euro complessivamente data è tutta in recessione, meno 0,3%. E poi il capo del Dipartimento Mercati del Fondo Monetario Internazionale dice: i rischi per la stabilità finanziaria sono aumentati, il tempo sta per finire, è ora di agire. Sì, a chi lo dice? Cioè, nomi e cognomi. A Barack Obama, a Timothy Geithner, che non hanno fatto la riforma in America per rimettere in ordine le banche d'affari e separare dalle banche, dalle banche commerciali, all'Inghilterra, travolta dallo scandalo LIBOR su Barclays, ma non ci sarà solo Barclays lì dentro, all'Europa che non riesce a trovare una risposta che ottenga qualche effetto sui paesi in difficoltà. Chiedo. E sempre il Fondo Monetario conferma che il PIL italiano calerà del 2% quest'anno, meno 1,9, e purtroppo, secondo il Fondo Monetario, ci sarà una leggera recessione anche nel 2013, meno 0,3%. Il debito salirà al 125% nel 2012 e al 126,5%. Nel 2013, a pesare sul debito italiano così come su quello tedesco, sono gli aiuti europei per il fondo IFSF, cioè gli aiuti che noi mettiamo, i soldi che mettiamo a disposizione del fondo europeo. Che per mettere questi soldi, non è vero che li metta solo la Germania, l'abbiamo spiegato molto bene, l'Italia contribuisce per un 18% e creiamo nuovo debito. So che sembra assurdo col debito che abbiamo creare nuovo debito, ma il fondo prevede la partecipazione di tutti i paesi e quindi che tutti mettano la loro fiche. Però il Fondo Monetario Internazionale dice che alcuni spread dell'Unione Europea non sono giustificati dai fondamentali. Vi leggo invece due cose sulle dichiarazioni di Berlusconi di oggi, che molto stanno facendo discutere, e poi una cosa sulla Sicilia. Allora, c'è stato un po' di giallo, nel senso che Silvio Berlusconi oggi alla Bild, settimana tedesco Bild, ha detto: ho un cordialissimo rapporto con la signora Merkel, la stimo per la sua franchezza, la sua serietà, la sua competenza, la sua dedizione. E la risposta è arrivata un po' piccata da parte del portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, che ha detto: Silvio Berlusconi e Angela Merkel non hanno più avuto contatti da quando non è più premier, quindi non posso parlare attualmente di un rapporto cordiale. Ha aggiunto però Seibert: quando hanno lavorato assieme c'è stata una buona collaborazione italo-tedesca. Poi Berlusconi ha anche aggiunto, sempre in questa intervista alla Bild: non ci auguriamo un'Europa più tedesca, noi ci auguriamo, scusatemi, una Germania più europea e non un'Europa più tedesca. E su questo devo dire che, sapete la mia posizione, niente da obiettare. E così come niente da obiettare, non ho problemi a essere d'accordo con Berlusconi o con qualunque politico con cui sono d'accordo, quando Berlusconi dice si avverte una certa egemonia tedesca nell'Unione Europea. Berlino non è irritante, deve essere proprio lungimirante. A mio avviso anche questo è assolutamente corretto. Nessun trionfo contro la Germania, l'Unione Europea deve essere più unita. E poi ci sono due elementi su cui non faccio nessun commento, faccio solo riascoltare alcune dichiarazioni precedenti. Silvio Berlusconi, infatti, in questa intervista alla Bild sostiene che grazie alla sua attività di governo il bilancio è andato sotto controllo, che il ritorno alle valute nazionali sarebbe una sconfitta, quindi no lira, e dice che dice Berlusconi: sono il primo fra i leader occidentali a denunciare la pericolosità della crisi finanziaria globale, a sostenere la necessità di introdurre delle riforme. Ecco, io però vorrei ricordare quanto diceva Berlusconi a fine del 2011, insomma, qui ne abbiamo i file, vale per Berlusconi come vale per Prodi, come vale per Fini, cioè non mi interessa proprio nulla. E vi farei ascoltare due passaggi, uno del fine 2011 e l'altro della fine del 2009. Noi siamo veramente un'economia forte, la terza economia europea, la settima economia del mondo. La vita in Italia è la vita di un paese benestante. In tutte le occasioni questo si dimostra. I consumi non sono diminuiti, i ristoranti sono pieni, gli aerei bisogna con fatica si riesce a prenotare dei posti, i posti di vacanze nei ponti sono assolutamente iperprenotati. Ecco, non credo che voi vi accorgiate, andando a vivere in Italia, che l'Italia senta un qualche cosa che possa assomigliare a una forte crisi. Non mi sembra. Io non commento e faccio ascoltare però un altro file del 7 marzo del 2009, sempre Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: il peggio della crisi è passato. Il primo messaggio era quello di la necessità di un lavoro concorde tra tutti i vari paesi, tra tutte le più importanti economie per uscire da questa crisi, e il messaggio di fiducia che questi paesi si devono impegnare a dare alle loro popolazioni, visto che il peggio della crisi tutti consideriamo, ed è stato lì solennemente riaffermato, è alle nostre spalle. Ora occorre che tutti guardino con serenità al futuro, che ci sia quella fiducia che è mancata, anche, soprattutto qui da noi in Italia, perché abbiamo avuto un'opposizione che ha fatto il tifo per la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Oggi la nostra rubrica su cos'è questa crisi, cioè sulla crisi che altri non vedono o non sentono o ignorano, in realtà è un po' particolare, perché riferiamo una dichiarazione e un allarme lanciato dal vicepresidente di Confindustria Ivan Lobello, siciliano, quello che lanciò assieme a Montante l'iniziativa, l'espulsione dalla Confindustria di chi paga il pizzo alla mafia. Ha detto: voi sapete che tra i racconti di questa crisi, di cos'è questa crisi per gli altri, la regione Sicilia ha la pole position, ha il piedistallo più alto quanto a sprechi, inefficienze, incapacità di usare i soldi dell'Europa. Abbiamo raccontato anche la regione Lombardia, Friuli Venezia Giulia, l'Emilia e quant'altro. Però oggi Ivan Lobello dice, in un'intervista al Corriere della Sera: la regione Sicilia si trova sull'orlo del fallimento, vicino al default. Va ripensata anche l'autonomia e occorre avviare un'operazione verità, scuotere dal torpore i siciliani, dai dipendenti regionali e pensionati della stessa regione, che saranno i primi a trovarsi senza stipendi in caso di crollo. Ma il governo Monti, aggiunge Ivan Lobello, deve subito mettere a mano ai conti, controllando un bilancio reso non trasparente da poste dubbie e residui inesigibili. La Sicilia, continua Lobello, rischia di diventare la Grecia del paese, e il paese deve intervenire anche superando gli ostacoli di un'autonomia concessa nel dopoguerra in condizioni storiche e politiche ormai lontanissime, ma utilizzata da scriteriate classi dirigenti per garantire a sé stesse l'impunità. Ora, l'autonomia è una cosa talmente seria e importante che uno se la deve meritare. Io su questo sono d'accordo al 100%. È una cosa per classi dirigenti e cittadini molto responsabilizzati, e quindi sono autonomi in quanto responsabilizzati. Autonomia non vuol dire che scarichi tutti i tuoi buchi, i 20.000 dipendenti della regione Sicilia contro i 5.000 della regione Lombardia, più altri 20.000 precari li scarichi lo Stato. Quella non è autonomia, quella è irresponsabilità. E adesso lo spread. Prima o poi ripartirò e salirò, salirò, salirò, salirò, fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, salirò, salirò, salirò, salirò a 495 punti. Allora, Moria Longo del Sole 24 Ore, nostro ospite, buonasera. Buonasera a tutti. È chiaro che il commento qui è, vabbè, a tutti gli sforzi fatti da Monti, che tutti hanno apprezzato, la Commissione Europea, anche da quello che abbiamo letto, il vertice tra questi big americani della tecnologia a San Vale, tutti a dire l'Italia sta facendo i compiti, l'Italia sta facendo i compiti, però i voti non arrivano. I voti non arrivano perché l'Italia è come se camminasse contro vento, con un vento fortissimo, perché l'Italia ha fatto oggettivamente una serie di passi avanti dal punto di vista dei conti pubblici, manovre effettuate, riforme come quella della pensione, varie cose anche molto dolorose, cose che piacciono ai mercati, non piacciono ai cittadini ma piacciono ai mercati. Il problema è che la speculazione non ce l'ha tanto con l'Italia in questo momento quanto con le fragilità europee. Abbiamo una situazione in Spagna che sta diventando sempre più ingestibile, soprattutto perché lo Stato non ha le risorse per salvare le banche, le risorse dall'Europa stanno arrivando ancora nel modo sbagliato. C'è stato un vertice europeo che sembrava in parte minimamente aver risolto queste cose, ma dopodiché nell'implementazione sono arrivati tutti i punti dolenti. La Finlandia ha iniziato a protestare con altri paesi, diciamo, virtuosi d'Europa, piccoli ma virtuosi. Oggi la notizia, secondo me, molto negativa è che la Corte Costituzionale tedesca ha deciso di spostare al 12 settembre, che è tra 20 anni per i mercati, ha deciso di spostare al 12 settembre la decisione se considerare costituzionale oppure no la partecipazione tedesca al nuovo fondo salva Stato europeo, quello che dovrebbe salvare le banche spagnole senza inguaiare lo Stato e così via. È ovvio che in questa situazione i mercati si spaventano e vanno a colpire i più deboli, purtroppo noi siamo tra quelli. Cioè, se posso dare un titolo a Moria, dopo il vertice della settimana scorsa, qui non si capisce bene come funzionerà questo scudo antispread. Non si capisce, cioè, perché non l'hanno mai detto, esatto, e non hanno ancora deciso. C'è un prossimo vertice a fine luglio, se non ricordo male, ma ormai ci siamo. E vorremmo capire anche noi, ci spiegasse, perché da quello che si è capito è un meccanismo che, superato un certo livello di spread, partirebbe. Per cui non sappiamo però quale livello, 300, no, purtroppo 400, questo, 800. Io credo che questo meccanismo automatico è già stato escluso. No, l'automatismo è stato escluso. E oggi, tra l'altro, fonti europee, vediamo se riesco a trovare una notizia su questo tema, dicevano proprio l'assistenza finanziaria verrà fornita sempre con condizioni, non ci sarà solidarietà senza contropartite, e che vuol dire appunto che non sarà un meccanismo automatico che, superati 300, tu hai accesso immediatamente. Però sarebbe l'unica cosa che servirebbe veramente. Eh sì, perché servirebbe veramente, perché nessun speculatore va a portare lo spread, a scommettere su uno spread subito 300 punti, se sa, dico 300 per dire, se sa che in automatico il fondo ISM tramite la BCE, il garantito della BCE, si compra i titoli di Stato e fa abbassare lo spread. Cioè, nessuno è così pazzo da mettersi contro un fondo del genere la Banca Centrale Europea, ho capito bene? Sì, esattamente. Il problema è che questa cosa non è accettata dai paesi cosiddetti virtuosi, che alla fine, secondo me, stanno diventando i paesi che contraddicono tutti gli accordi presi in passato. Perché è ovvio che l'Italia, lo dice oggi il Fondo Monetario, dice che lo spread italiano, almeno 200 punti base dei quasi 500 che ha toccato oggi, che ha sfiorato oggi, sono ingiustificati dalla situazione italiana. Quindi noi, diciamo, ereditiamo dalla incertezza europea 200 punti base di troppo. Allora, è ovvio che se l'Italia, per accedere al fondo salva spread, deve promettere ulteriori misure quando già sta rispettando quelle che ha promesso in precedenza, che dovrebbero portare il pareggio di bilancio nei prossimi anni, e se si trova sottoposta a una vigilanza serratissima, come è accaduta in Grecia, con misure sempre maggiori da dover adottare, perché poi le misure sono recessive, la recessione peggiora tutti i rapporti di bilancio e quindi vanno a incastrare in un processo a spirale. È ovvio che allora l'Italia non chiederà mai un aiuto contro lo spread, a meno che non sia veramente con l'acqua alla gola. Allora, questo però è quello che andrebbe evitato. Lì rischia di essere troppo tardi, cioè il meccanismo per essere efficace, esatto, che l'ha spiegato che anche Mario Draghi in Spagna e in Grecia. Esatto, il governatore Visco, e cioè che non devi arrivare, diciamo, per usare un termine un po' crudo, alla chemioterapia, devi cercare di anticipare prima, perché sennò poi il rimedio è pesantissimo, no? Con il massimo rispetto per chi vi si sottopone. Per cui dire, vabbè, quando sarete praticamente con l'acqua vicinissima alla bocca, partirà un meccanismo di salvataggio, rischia di costarti tantissimo, come nel caso greco, e di essere inefficace, perché se tu superi un certo livello di spread, hai voglia di tornare indietro. Vabbè, non è che tu m'abbia conforto molto, Moria, ma tant'è. Tra l'altro, il fondamentale dice che alcuni spread non sono giustificati dai fondamentali, anche secondo noi. Ne parleremo nella seconda ora del programma. Grazie al collega del Sole 24 Ore. C'è chi scrive con un certo francesismo: lei comunista di di cacca, si sciacqui la bocca prima di sparare su Berlusconi. Veramente, io ho detto di essere anche d'accordo con lui e non lo trovo assolutamente un problema. Sulle dichiarazioni sull'Europa, il rapporto tra Europa e Germania, abbiamo solo fatto ascoltare cosa dichiarava fino al 2011 e nel 2009. Dopodiché va bene anche così. Adesso arriviamo anche alla borsa, meno 0,36% nel finale. Milano, invariata Parigi, più 0,30% Francoforte, invariata Londra, l'America meno 0,23%. Prima però vorrei restare sul tema dei mercati, ma parlare dei mercati cosiddetti commodities, quindi le materie prime di carattere alimentare, non sono solo quelle le commodities, però ci sono tensioni fortissime che, come spesso accade in questi casi, derivano da elementi meteorologici. È ancora un mondo, se mi permettete la battuta, abbastanza naturale: c'è siccità o piove, si muove il prezzo, la domanda verso l'alto o verso il basso dei beni. Non è come il mondo degli spread, in cui non si capisce una beata niente. E allora, no, nel senso che non rispecchiano poi se non la speculazione, il panico, la paura, ma non rispecchiano fondamentali. Parliamo allora di commodities. Cosa è successo? Nel cosiddetto Corn Belt, la cintura del grano negli Stati Uniti, c'è stato un caldo e una siccità fuori da ogni precedente, ma tra l'altro anche in Russia, grandissimo produttore di mais, c'è stato un calo dei raccolti dopo le alluvioni, così come in Ucraina. In soli 30 giorni, pensate che il mais ha avuto un aumento del 42%, ha raggiunto il record storico di 790 cents per bushel, e le materie prime, le commodities alimentari si misurano infatti nel caso del mais in bushel. Un bushel è circa, era una specie di sacco, circa 25 kg e mezzo. I dati arrivano dal Chicago Board of Trade, quella famosa per un film che ogni tanto, forse possiamo anche far sentire, un film che si chiama Una poltrona per due, no? Del 1983, e tutte le commodities si trattano lì, a Chicago, scusatemi, a livello mondiale. Ma non c'è solo il mais, anche il grano ha fatto più 34%, soia più 17%, frumento ai massimi da un anno, sia a Chicago che all'Euronext di Parigi, dove sfiori 260 euro a tonnellata. E per il riso, il costo di una tonnellata Thai è passato da $548 di gennaio ai $620 di giugno. Allora, una poltrona per due, dai. Signore e signori, le stime del raccolto delle arance per il prossimo anno. Dopo aver esaminato le stime giunteci dai vari stati produttori di arance, abbiamo tratto la seguente conclusione. L'inverno rigido non sembra aver compromesso il raccolto delle arance. Dio, venda! Vendo, vendo, vendo, vendo! Wilson, dove diavolo sta andando? Brutto idiota! Torni immediatamente là in mezzo e continui a vendere! Ma io non credo di poter... Ok, ok. Sì, 200, 200. 100. Grazie, bene. Ehi, amico, 5 per me. 5, 5, okay, 5, 5, 5, okay. 5. Buon anno, signori! Dottor Andrea Guarneri, analista di Commodities Partners, società di investimenti in Svizzera che si occupa appunto di materie prime. Buonasera. Buonasera a lei. Mi sente bene? La sento un po' distante. Io la sento benissimo, cerco di alzare un po' la voce. Non è in viva voce, vero? No. No, ok, allora è semplicemente nel tunnel. È il tunnel che va da Ginevra a Gran Sasso, quello da Gemini. Esatto, vabbè, che dà dei problemi di traffico ogni tanto. In una direzione sola. Comunque, mi dica una cosa, il motivo per cui mais, e lo citavamo, più 42 grano, più 34 soia, più 17 frumento, sono a livelli altissimi, è solo meteorologico, come dicevo io, o c'è anche dell'altro? C'è anche dell'altro, e quell'altro sono le scorte che sono molto basse. Questo lo si sapeva già da inizio d'anno, le scorte sui cereali, quindi quelle che ha giustamente citato, il corn, quindi il mais, il frumento, il wheat e la soia, sono ai minimi, a dei livelli molto bassi, per cui è bastata una notizia come quella che ha detto lei nelle ultime tre settimane, quindi già c'erano state prima notizie di siccità nel Sud America, quindi Argentina e Brasile. Poi la siccità che sta arrivando in modo continuativo negli Stati Uniti ha provocato questo incremento di prezzo, come può ha detto giustamente, e in particolare nelle ultime tre settimane ha colpito il corn, quindi il mais e il frumento, meno la soia perché era già cresciuta di prezzo nei mesi precedenti. Ecco, anche in Italia, cito la Coldiretti, i primi 10 giorni di luglio hanno fatto registrare un meno 83 di pioggia, cioè è piovuto l'83% in meno rispetto alla media. Secondo la Coldiretti si conteranno a causa della siccità nelle campagne già perdite per 400 milioni con il mais, che è la coltura agricola più colpita. E poi anche per il pomodoro con un crollo del 25% in media al sud sulle attese di produzione. Domanda che tanto è quella che sta arrivando al 349-238-6666. Viste queste cifre, visto quello che succede sui mercati, ha un senso investire in mais, soia, grano, quant'altro? Oppure sono mercati troppo volatili, troppo meteorologici, diciamo così? No, diciamo che dal mio punto di vista ha ancora un senso, in particolare sulla soia, perché sulla soia abbiamo una salita che è costante da inizio d'anno. Tra l'altro la soia ha fatto non solo un nuovo massimo rispetto all'anno scorso, ma è tornata sui prezzi di massimi assoluti fatti nel 2008, cosa che non è ancora successa per quanto riguarda il corn e per quanto riguarda il frumento. Quindi nel breve periodo io sono un po' più prudente sul corn e sul frumento, perché queste salite di prezzo così veloci e così rapide normalmente potrebbero avere dei rientri altrettanto veloci, quindi sono un po' più prudente su queste due materie prime. Ecco, mi dica una cosa, ma come si fa, perché voi lavorate in Svizzera, appunto fate materie prime, ma è un mercato molto per addetti ai lavori, cioè per chi segue, oppure tra virgolette, non voglio creare nuovi mostri, ma anche per cassettisti, cioè per un risparmiatore molto più prudente che magari vuole diversificare? Dico, male che vada, uno il mais se lo porta a casa, no? Cioè anche il frumento ci fa. Ma io le posso dire che ho avuto la fortuna di dirigere un'azienda agricola. Io sono cresciuto proprio all'interno di un'azienda agricola, quindi ho toccato con mano la materia prima di arrivare a conoscere il mondo finanziario. E quindi posso dirle che comunque seguire le materie prime e seguire l'andamento dei mercati finanziari legati alle materie prime è un aiuto per coloro che li producono, non soltanto per coloro che li vanno a vendere, quindi le aziende più grosse. Dal mio punto di vista, in questo momento per un investitore ritengo che qualcosa di interessante su cui poter investire in questa fase potrebbe essere il natural gas, che è quotato in America ed è un prezzo molto basso, e c'è già gente che ci ha investito negli ultimi anni, negli ultimi 2-3 anni, ed è continuato a scendere di prezzo, però noi siccome studiamo proprio la curva dei prezzi e notiamo che c'è un restringimento del cosiddetto contango, cioè praticamente il prezzo breve è comunque più basso del prezzo, per dire, il contratto di agosto ha un prezzo inferiore al contratto di marzo 2013, però era il 40% fino a un mese fa, adesso è il 25%, quindi questa materia prima ha una potenziale salita interessante anche per un normale investitore. Ultima domanda, come si fa a investire in commodities? Non si faccia pubblicità, mi raccomando. No, si fa con gli strumenti che possono essere... Cioè uno va in banca e la banca, lo sportello, ha la possibilità di investire su Chicago Board of Trade o su fondi che sono lì investiti? Guardi, per fare degli investimenti corretti nelle materie prime ci sono sicuramente gli ETC che sono tranquillamente sono comprabili attraverso le banche. Per essere più bravi e per riuscire a fare degli investimenti più produttivi devono andare praticamente su strumenti più specifici in cui, come dicevo, c'è una stagionalità da rispettare, quindi si parla di future, si parla di CFD, quindi contratti per differenza. Ecco, il ragionamento che fanno alcuni ascoltatori al 349-238-6666 è un ragionamento che a mio avviso ha una grossa presa concettuale e anche logica, e cioè, ma al di là della congiuntura di come andrà il 2012-2013, ma se qui noi andiamo verso un mondo sempre più popolato di persone che, giustamente dal loro punto di vista, non vogliono accontentarsi del pugnetto di riso, quindi con domande del settore alimentare sempre più elevate, nel medio-lungo periodo non sarebbe un investimento garantito quello in mais, frumento, grano, soia, riso? La domanda è molto corretta. Devo dire che io sono, come le dicevo, ho vissuto gli ultimi 10 anni proprio dell'andamento delle materie prime, e il mondo è cambiato come il resto del mondo finanziario, anche quello delle materie prime è un po' cambiato, quindi il ragionamento di base è sicuramente corretto. Il punto è che ci sono quegli aumenti o quelle diminuzioni di prezzo così rapide, oscillazioni molto forti, diciamo. Esatto, che un investitore che si affaccia per la prima volta a questo mondo, che è abituato magari a oscillazioni più contenute, ecco, la parte emotiva potrebbe essere una parte importante da dover gestire. E questo no, questo è importante. Non mi sembra che il risparmiatore normale abbia voglia di ancora di altri Luna Park e otto volanti. Esatto. Vabbè, grazie soprattutto a Andrea Guarneri, analista appunto di Commodities Partner, società di investimenti in Svizzera, con la K l'avete scritto, giusto? Comunisti anche voi, che si occupa appunto di materie prime. Grazie, adesso andiamo alla borsa. Prima della borsa una notizia però, continuate a chiederci su Facebook e via SMS di parlare del referendum per tagliare gli stipendi d'oro dei parlamentari. Già vi ho accennato, vi tornerò nella seconda ora del programma, non abbiamo nulla in contrario, sapete che è un cavallo di battaglia di questo programma non tanto il populismo sugli stipendi parlamentari, ma il raffronto con gli stipendi degli altri, no? Noi abbiamo praticamente, i nostri parlamentari guadagnano 4.000 euro più al mese lordi, più dei loro colleghi francesi, 3.500 più dei loro colleghi tedeschi, per cui massima disponibilità, e ne parleremo nella seconda ora del programma. Borsa invece, come sempre con Radio Corriere, sulle 24 ore, meno 0,36 si regge. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. E andiamo allora sui titoli, vanno leggermente deboli le borse europee, Parigi meno 0,03, Francoforte più 0,13, niente di grave, Londra più 0,02. Partiamo da Fiat, rimbalzo o c'è dell'altro? Più 4,36%. Ma più che altro un rimbalzo, da inizio luglio a venerdì scorso i titoli del Lingot avevano perso quasi il 10%, andando anche in linea con il settore europeo schiacciato da Peugeot, che peraltro anche oggi ha perso un altro 7% alla borsa di Parigi. Comunque sale intanto anche l'attesa per i dati sulle immatricolazioni europee che saranno resi noti domani. Fiat più che altro è stato diciamo un rimbalzo tecnico, almeno parlando con i trader. Mediaset più 1,70%, Ansaldo più 1,50%, anche qui ci sono sempre le attese per l'eventuale cessione della società. In questo caso c'è stata in verità anche una notizia dal Medio Oriente, sì. Sì, notizie che la società ha vinto una serie di commesse, e quindi questo ovviamente porta fieno in cascina ai conti dell'azienda, ma soprattutto la abbellisce, si può dire, anche ai fini della cessione, che dovrebbe essere realizzata entro fine anno. ...17:48, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Eleonora Micheli, dicevamo Snam debole, ma anche Pop Emilia Romagna e Pop Milano. Sì, Snam meno 0,67%, il titolo diciamo che non ha beneficiato delle indiscrezioni sull'interesse relativamente alla quota che è stata messa in vendita dalla controllante Eni e per la quale lo stesso Paolo Scaroni, l'amministratore delegato di Eni, ha detto che c'è molto interesse. Infatti la società pare che sia nel mirino di diversi sceicchi, si è parlato dell'emiro del Kuwait, ma non solo anche del fondo sovrano del Qatar che di recente ha acquistato anche Valentino e di interesse sempre dal mondo arabo. I titoli però non si sono infiammati, hanno perso appunto lo 0,67%. Ancora tra i titoli in calo segnaliamo Mediobanca meno 2,70, A2A meno 2,5, Unicredit meno 2,20, insomma lo spread ha influito, l'aumento dello spread è tornato a livelli più alti da metà gennaio, ahimè, ha influito sulle banche perché le banche sono imbottite di titoli di Stato italiani. Dicevo, Banco Popolare meno 2,1, Bibanca meno 2%, Intesa meno 1,37, Eni meno 1%, Unipole e Fondiaria sono i migliori titoli. Adesso attenzione al percentuale che vi sto per leggere perché è partito l'aumento di capitale. Comunque, Fondiaria Sai sulle risparmi ha guadagnato il 2.999%. Fondiaria Sai sulle ordinarie il 119%, Unipol sulle ordinarie il 43%, Unipol sulle privilegio il 28%. Esatto, diciamo che Fondiaria non è riuscita a far prezzo durante la giornata, visto che gli ordini in acquisto erano troppi. Oggi è partito l'aumento di capitale di entrambe le compagnie, rispettivamente da 1,1 miliardi, e i prezzi di emissione delle nuove azioni sono molto più bassi rispetto ai corsi di borsa, rispettivamente a 1,17 euro per le Fondiaria Sai e a 2,50 per le Unipol. Ovviamente i diritti legati all'operazione hanno registrato l'andamento contrario, mentre infatti i diritti di Fondiaria Sai hanno registrato un calo attorno al 40%, quelli di Unipol attorno al 52%. Allora, nel ringraziare l'onorevole Micheli, io resto sul tema invece dei mercati, l'avevo promesso già la settimana scorsa, poi non ce l'abbiamo fatta con i tempi, perché vorrei parlare di petrolio e delle sue prospettive. Non c'è infatti solo un prezzo in questi giorni in calo, oggi a 86,92 dollari al barile, c'è anche chi ritiene che nel medio termine il prezzo del petrolio sia destinato inesorabilmente a calare se non mantenuto artificialmente in piedi. Siamo in collegamento con l'autore di questo saggio, che è Leonardo Maugeri, attualmente insegna ad Harvard e dal 2001 al 2010 è stato direttore strategia e sviluppo dell'ENI. Buonasera dottor Maugeri. Buonasera a voi, buonasera. Contrariamente a quanto leggiamo in giro, penso a David King dell'Università di Oxford e James Murray dell'Università di Seattle, che dicono attenzione, ormai l'offerta di petrolio è arrivata ai massimi e non riuscirà a crescere al passo con la domanda, come invece è accaduto dal 98 al 2005, e Leonardo Maugeri dice attenzione, no, in questo decennio la produzione di greggio potrebbe crescere a ritmi impressionanti e potrebbe causare un crollo dei prezzi, addirittura potrebbe crescere del 50%. Professor Maugeri, è in controtendenza con tante altre analisi? Sì, me ne rendo conto, sono sempre stato in controtendenza. Di fatto, da quando sono in controtendenza, l'offerta di petrolio non è mai calata, è sempre aumentata. E quello che sta succedendo in questi giorni è che, nonostante la crisi economica internazionale, nonostante la crisi della domanda, la produzione, la capacità produttiva petrolifera mondiale sta aumentando anche in questi giorni a ritmi impressionanti. Quindi dal mio studio quello che emerge è che io ho valutato tutti gli investimenti in corso in questo momento nel mondo nello sviluppo di nuova capacità produttiva, quindi ho un database che mi consente di vedere tutti i giacimenti del mondo e tutti gli investimenti. Quello che sta accadendo è impressionante, la capacità produttiva in via di sviluppo è immensa e si sta già sviluppando peraltro, non è che bisogna aspettare il 2020 che è l'obiettivo poi del mio studio. Sta già sviluppando. Questo vorrebbe dire per noi poi avere un petrolio, maggior offerta di petrolio e avere prezzi in calo, così mi rimetto anche nella ormai annosa polemica con i produttori, i prezzi alla pompa. Cioè, se lei ha ragione, noi dovremmo assistere nel futuro a prezzi in calo, oppure questo aumento della domanda verrà completamente assorbito dalle economie emergenti? No, le economie emergenti in questo momento stanno sostenendo la scarsa domanda che c'è a livello internazionale, perché non è solo l'Italia o l'Europa, anche negli Stati Uniti la domanda di petrolio e di benzina è in calo. In realtà quindi ci sono due facce del mondo, una quella dei paesi emergenti che continuano a consumare un po' meno del passato e l'altra quella dei paesi industrializzati che ormai da diversi anni registrano un calo della domanda di petrolio. Quindi diciamo che i paesi emergenti nel futuro compenseranno in parte il calo strutturale della domanda dei paesi industrializzati. E quindi diciamo l'effetto sarà neutro, zero, cioè quello che noi consumeremo di meno verrà consumato di più dai paesi emergenti e l'aumentare invece dell'offerta quindi dovrebbe portare a una diminuzione dei prezzi nel futuro. Io addirittura ipotizzo la possibilità di un collasso dei prezzi. Quando cominciai a scrivere il mio rapporto a dicembre e iniziai a tenere le prime lezioni a Harvard, dicevo già queste cose e la gente mi guardava con gli occhi sgranati perché tutti pensavano ma questo è folle. Consigliavo a molti hedge fund di fare molta attenzione ai loro investimenti perché vedevo un'offerta che cresceva troppo più velocemente di quanto cresceva la domanda. E questo si sta verificando. Adesso il problema è capire quanto cresca velocemente l'offerta rispetto al ritmo della domanda, perché noi potremmo avere un collasso dei prezzi, ora stiamo già avendo una discesa sostanziale, ma se abbiamo un aumento della capacità produttiva troppo forte nei prossimi tre anni, il collasso arriva nei prossimi tre anni, probabilmente in quel caso il collasso dei prezzi verrebbe riassorbito abbastanza velocemente perché ci potrebbe essere anche un rimbalzo della domanda, mentre invece se avviene dopo il 2015 il collasso dei prezzi, cioè quando gran parte della capacità produttiva di cui parlo nel mio studio ormai è stata sviluppata e diventa irreversibile, beh, a quel punto il collasso dei prezzi potrebbe essere un collasso di più lunga durata e quindi di conseguenza i prezzi della benzina anche nel mondo dovrebbero calare. Per chiudere, non vorrei portarla dalle stelle delle previsioni alle stalle di cui ci occupiamo tutti i giorni, ma insomma lei, avendo trascorso quasi 10 anni all'ENI, un'idea del rapporto prezzo della materia prima e prezzo alla pompa se la sarà fatta anche come cittadino, come persona che va a fare il pieno? Sì, guardi, io dovevo sempre spiegarlo anche a mia madre e a mia moglie. La realtà è una, che ancora oggi, no, il prezzo della benzina alla pompa risente, sì, come diceva De Vita, del prezzo internazionale, quello fissato dal Plus, e la componente materia prima, la componente petrolio, costituisce una percentuale abbastanza ridotta di quello che pagano i consumatori. Cioè, ora non ho i dati precisi attuali sull'Italia. È sul 30% circa in Italia. Esatto, si aggira sul 30%. Il grosso sono tasse, come sapete voi tutti, e poi ci sono altri fattori che possono andare anche in modo possono avere una traiettoria diversa rispetto al prezzo del petrolio, mi spiego. Ci possono essere problemi sulla raffinazione, problemi sulla distribuzione che aumentano i costi di questi segmenti del prezzo, mentre il prezzo del greggio magari cala. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare adesso all'altro approfondimento, l'ultimo di questa puntata, mi riferisco al dato di oggi sull'export. Buona notizia in una giornata in cui lo spread è tornato a schizzare livelli massimi da metà gennaio. Buona notizia, dicevo, perché c'è un aumento dell'export rispetto a maggio del 2011 di quasi il 5%, ma c'è anche un aumento mese su mese, il cosiddetto congiunturale, maggio rispetto ad aprile, e un miglioramento della bilancia commerciale. A dimostrazione, lo dico subito, con tutto rispetto verso gli spagnoli, i portoghesi e i greci, che questo paese ha una fisionomia diversa da altri paesi che hanno conosciuto bolle immobiliari come quello spagnolo o balle finanziarie come quello greco, e assomiglia molto di più da questo punto di vista alla Germania che non, di quanto non assomigli la Francia alla Germania. Vi arriviamo tra un attimo. volevo dare un piccolo spazio a un referendum che riguarda l'economia, perché riguarda gli stipendi d'oro dei parlamentari. Faccio presente che la sola indennità mensile dei parlamentari prevista dalla Costituzione è pari a 11.280 euro lordi per i deputati e 11.500 euro lordi al mese per i senatori. Faccio notare che sono 4.000 euro più dei loro colleghi francesi e 3.500 euro più dei tedeschi. Ha scritto un ascoltatore al 349-238-6666 dicendo: i nostri operai guadagnano meno dei tedeschi, di quelli tedeschi, i nostri politici guadagnano di più. Tutto perfetto, e devo dire che è inattaccabile come ragionamento. Cioè, il costo del lavoro in questo paese è sempre un problema del dipendente, dell'operaio, così, mai del top manager e mai della classe politica, va bene. E ancora, a questi soldi va aggiunta la diaria, e su questo c'è il referendum che si vorrebbe abolire. La diaria è calcolata secondo le presenze effettive, ma può raggiungere i 42.000 euro l'anno a testa e complessivamente un costo di quasi 40 milioni di euro. Chiamo allora urgentemente Leporello, il Don Giovanni. Notte e giorno faticar, per chi non la sa gradir, pioggia e vento sopportar, mallar male, mallar vir. Voglio fare il gentil servir, e non voglio più servir, no, no, no, no, no, no, non voglio più servir. Allora, il 12 maggio è partita una raccolta firme per un referendum contro la casta per tagliare gli stipendi d'oro dei parlamentari. La proposta è quella di abrogare l'articolo 2 della legge del 1965, la 1261, che disciplina le indennità spettanti ai membri del Parlamento. Nel caso specifico, i compensi relativi alla diaria e alle spese di soggiorno a Roma, che ammontano a 3.500 euro lordi, verrebbero abrogate. L'iniziativa del Movimento Unione Popolare è unico componente del comitato promotore referendum. C'è un sito. Il movimento precisa di non godere di alcun finanziamento pubblico e di provvedere in proprio alle spese della campagna referendaria. Oltre 200.000 adesioni nei primi due mesi, ma non si erano accorti gli organizzatori di quelle che sono le regole del referendum. Non può essere depositata nessuna richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due camere, e quindi tutte le firme potranno essere consegnate solo a gennaio 2013, e la prima data utile per la raccolta 90 giorni prima il 6 ottobre. Insomma, il voto sul referendum non potrà arrivare per motivi di legge fino al 2014. Questa è l'iniziativa che comunque volevamo segnalare. La ballata dell'euro non ve la faccio ascoltare, invece parliamo di un medagliere italiano, di tutto quel mondo fatto di operai, dipendenti e imprenditori, che continua a mantenere questo paese al secondo posto nell'area euro come paese esportatore, come potenza, non ho nessun problema a dirlo, manifatturiere. Eh sì, perché nel giorno in cui il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato a ribasso le stime di crescita e ha detto che l'Italia sarà in recessione leggera, meno 0,3, anche nel 2013, mentre l'Europa quest'anno tutta meno 0,3 in media e l'anno prossimo una leggera ripresa dello 0,7%, la buona notizia che riguarda l'export, più 4,8% a maggio su un anno prima, più 1,5% su aprile, e le importazioni sono diminuite rispetto all'anno prima del 4,5%. Bene l'export soprattutto verso i paesi fuori dell'Europa, più 5,5%, meno 2% invece hanno fatto i mercati europei. Il rialzo vale è un incremento dei valori medi unitari, quindi non sono i volumi, non abbiamo esportato più merci, ma merci di maggior valore. I mercati più dinamici sono gli Stati Uniti, più 40%, i paesi OPEC, quindi i produttori di petrolio, più 37%, il Giappone più 21%. Se andiamo ai settori, molto bene le esportazioni per i prodotti petroliferi raffinati, i mezzi di trasporto esclusi gli autoveicoli, più 15%, con il risultato che la bilancia commerciale è in avanzo a maggio di 1 miliardo. Ecco perché ne voglio parlare con quello che ritengo, anche in questo caso non ho nessun problema a dirlo, uno dei massimi esperti in Italia nell'analizzare concretamente, nel dettaglio, come un entomologo fa con gli animali, con le farfalle, quelli che sono i settori produttivi di questo paese, che valgono poi messi assieme decine di miliardi, ma anche singolarmente presi miliardi, 4 miliardi, 1 miliardo e mezzo, 1 miliardo e 3. Professor Marco Fortis, docente di economia industriale della Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi tutti. Allora, intanto mi dia un commento sulla notizia, poi andiamo invece all'analisi. Export a maggio, una piccola boccata d'ossigeno, certo che la situazione non è che possa essere raddrizzata solo dall'export, però... Sì, una piccola boccata d'ossigeno, anche se certamente bisogna considerare che sta rallentando un po' tutto il ciclo economico mondiale, quindi le esportazioni verso i paesi extra UE vanno bene, vanno meglio di quelle verso i paesi dell'Unione Europea, dove alcuni come la Spagna si sono fermati come mercati, altri come la Germania e la Francia rallentano, ma anche tra i paesi extra UE cominciamo a vedere ormai da alcuni mesi un rallentamento forte, sì, del mercato cinese. Quindi i dati sono positivi perché testimoniano che fino all'ultimo le imprese italiane lottano per esportare, però certamente andiamo incontro a un periodo dove vi sarà un rallentamento generale. Allora, professor Fortis, lei che ascolta questo programma sa che noi battiamo ogni giorno in una rubrica fissa con gli sprechi di questo paese, del governo centrale, delle autonomie locali, regioni, comuni, l'incapacità di usare i soldi europei di molte regioni del sud, cioè delle cose inaccettabili, l'abbiamo battezzata, ma cos'è questa crisi? Però sa altrettanto che, così come siamo molto duri con noi stessi, siamo anche molto duri con chi ci critica in maniera sommaria, stereotipata, macchiettistica. Allora, dopo il traffico, io vorrei sapere se anche lei non girano le scatole quando, come in questo gioco della speculazione, noi veniamo accomunati a un'unica fascia dell'olio, come la chiamo io, che va dalla Grecia all'Italia, alla Spagna, al Portogallo, dell'olio d'oliva, ma con differenze che qualunque studente del primo anno di economia dovrebbe già conoscere, per cui mi sorprende molto vedere ragionamenti così grezzi, così grossi. Mi fa veramente arrabbiare, vorrei sapere il suo punto di vista e se magari riesce anche a articolarlo con numeri, cifre ed esempi concreti. C'è un ascoltatore che dice: mi sa che voi avete mollato la presa sulla lotta all'evasione fiscale, forse c'è un potere trasversale che vi ha detto di non esagerare. Non esageriamo con i poteri trasversali, no, semplicemente attendiamo le cifre che il governo ha annunciato sulla lotta all'evasione e vedremo se dopo quella campagna vi sarà veramente un aumento della lotta all'evasione o no, fermo restando che l'evasione che ci interessa, l'evasione è sempre un reato, però per non fare le demi-vierge, le mezze vergini, l'evasione che ci interessa è quella grossa, è quella grande, non l'artigiano che è in difficoltà, che con la crisi ha difficoltà a stare negli studi di settore. Anche quello è un reato, lo sappiamo, però cerchiamo di essere seri, no? I 200 miliardi di imponibile evaso non si fanno solo con l'artigiano che non sta negli studi di settore, si fanno con i grandi capitali, con le grandi società in Lussemburgo, in Liechtenstein, in Svizzera, no? E via così. Allora, professor Fortis, dicevo, non le girano le scatole quando veniamo accomunati col massimo rispetto per questi paesi, ma consapevoli delle differenze enormi nel nostro modello produttivo, nel nostro sistema a Spagna, Grecia, Portogallo e basta, sostanzialmente. Purtroppo siamo accomunati a questi paesi da gran parte dell'opinione pubblica del Nord Europa, ma anche del mondo anglosassone, che non tiene conto di differenze che definire enormi sarebbe dir poco, perché consideriamo innanzitutto i dati dell'economia reale. Nessuno dei cosiddetti paesi periferici, dei tre piccoli paesi periferici, né tantomeno la Spagna, possono essere lontanamente paragonati all'Italia, che per correggere un luogo comune non è nemmeno il secondo esportatore statisticamente parlando dell'Unione Europea, perché per esempio la Francia e l'Olanda sono davanti a noi, ma la Francia esporta anche molta agricoltura che noi non abbiamo e l'Olanda esporta in realtà merci in transito. No, manifatturiero, mi scusi, ha ragione, manifatturiero. Ma come paese manifatturiero siamo il secondo d'Europa per numero di addetti, per valore aggiunto, e siamo il secondo esportatore netto manifatturiero dopo la Germania. Non solo, ma siamo anche l'unico assieme alla Germania ed altri tre paesi, sono solo cinque i paesi della G20 che hanno un surplus manifatturiero con l'estero, sono la Cina, la Germania, il Giappone, la Corea e l'Italia. Cioè gli unici paesi al mondo, dei G20 mi scusi, comunque, esatto, potremmo dire, che occidentali, che hanno un attivo tra quanto esportano di manufatti e quanto importano, un esatto, attivo di bilancio. Certo. Esattamente, noi soltanto per citare i dati Istat appena usciti, soltanto nei primi cinque mesi di quest'anno abbiamo fatto quasi oltre 34 miliardi di euro di saldo commerciale attivo nei prodotti manufatti, quindi in cinque mesi. Il nostro canovaccio standard è stare più o meno intorno ai 60-65 miliardi di euro di surplus commerciale nei manufatti. Tra l'altro si registra anche un miglioramento dell'import che alcuni attribuiscono a una caduta generalizzata dell'attività di trasformazione del ciclo. In realtà abbiamo anche importato nei primi mesi dell'anno quasi 3 miliardi in meno di celle fotovoltaiche che prima alteravano con cifre gigantesche il nostro stesso surplus manifatturiero. Se consideriamo poi i paesi appunto dei Mediterranei, non c'è nessuno che possa, come l'Italia, essere secondo solo alla Germania per competitività, non tanto nelle precondizioni, cioè nel costo del lavoro, dell'energia, nella validità delle infrastrutture, ma come risultati sul campo. Perché ecco, stesso... qui arriviamo al valore, che poi non dice siamo bravi, no, ci sono le cifre per fortuna in economia. Abbigliamento, primi al mondo nella competitività, export di 20 miliardi con 3 miliardi e 7 di saldo commerciale attivo. Cuoio, pelletteria e calzature, primi al mondo nella classifica della competitività, export di 18 miliardi. Tessile, primi al mondo, export di quasi 13 miliardi. Meccanica non elettronica, secondi al mondo, sempre nella classifica mondiale della competitività, 87 miliardi, quasi 88. Manufatti di base, secondi al mondo, 55 miliardi. Manufatti diversi, secondi al mondo, 42 miliardi di esportazioni. Prodotti delle industrie alimentari, sesti al mondo per 25 miliardi. Mi racconta qualche chicca, perché poi queste sono le macro categorie, però io, se noi riusciamo a esportare 911 milioni nell'agricoltura dell'agricoltura del tabacco, ma faccio altri esempi che sono i prodotti, le tecnologie del caldo e del freddo, le vetrine che siamo nei bar, ai ristoranti, a quant'altro, cofani, armadi, vetrine, forni industriali, scalda acqua. Noi esportiamo di questa roba qua 2 miliardi e 865 milioni di euro all'anno. Cioè, noi non solo abbiamo le grandi firme della moda, certo, ma abbiamo anche le grandi firme dei banconi frigoriferi per i supermercati. Forse la gente non lo sa, ma sono aziende come il gruppo Etno Civelli che arreda tutti i supermercati dei leader mondiali della grande distribuzione, da Carrefour, Auchan. Sono aziende spesso poco note perché operano, diciamo, su mercati meno familiari al grande pubblico, ma che hanno delle leadership mondiali indiscutibili. E questo è un punto di forza soprattutto della meccanica. Anche qui c'è un altro luogo comune: all'estero, se chiedete dell'industria italiana, vi dicono la moda, il cibo, i mobili, che sono tutti settori peraltro importantissimi e tutt'altro che da trascurare, ma ormai il Made in Italy è fatto in termini di avanzo con l'estero per tre quarti di meccanica e di mezzi di trasporto diversi dagli autoveicoli, tra cui ci sono gli yacht di lusso, le navi da crociera, i motocicli, le biciclette, gli elicotteri, di cui siamo leader nell'export mondiale. La carta igienica, noi esportiamo 1.470 milioni l'anno di carta, di cui 360 milioni di macchine per produrre la carta. E poi carta per sanitari 300 milioni l'anno, piatti, bicchieri 200 milioni, carta igienica 450 milioni. Voglio dire, il mondo utilizza la carta igienica italiana, mi faccio finire qua forte, però è un settore che ha nel distretto di Lucca, se non ricordo male, il suo punto di forza. Sono soldi, è mezzo miliardo l'anno, Sono tutte cifre che tra l'altro contribuiscono a creare le condizioni per una ricchezza diffusa sul territorio, certo, che è un altro aspetto chiave che non è noto a livello mondiale ed è totalmente trascurato anche nelle valutazioni sulla sostenibilità del debito sia privato che pubblico dei vari paesi. Tanto non siamo di moda, è di moda il ragionerismo tedesco e la speculazione cinica anglosassone, mi sembra, di umanismo e di rinascimento nell'economia se ne vede gran poco, Fortis. Ma anche chi fa il ragioniere dovrebbe avere il coraggio di uscire da degli schemi stereotipati, perché se noi pensiamo che per 15 anni ci ci siamo fatti irretire da due parametri nel giudicare le economie. Uno era la crescita del PIL e l'altra, indipendentemente da come fosse stata generata, perché certo, abbiamo visto come hanno fatto a generarla in Irlanda e in Spagna con la bolla immobiliare. E ancora oggi, se lei prende le classifiche decennali dell'Ocse e vede la crescita su 10 anni, lei troverà che i primi posti per la crescita c'è la Grecia, l'Irlanda, l'Islanda, il Portogallo, la Spagna. Cioè è come premiare un atleta perché si è dopato e farlo arrivare prima. L'Italia, che assieme alla l'Italia era ultima e la Germania penultima in questi tassi di crescita decennali del PIL. L'altro parametro che è sempre stato considerato come il parametro vincente in assoluto per capire se un paese era solido o meno era il debito PIL. Peccato che il debito privato, pubblico dell'Irlanda era il più basso d'Europa fino a 4 anni fa, perché i debiti li facevano da un'altra parte, a livello di imprese, a livello di banche, certo. Ed è saltato il paese, lo Stato ha dovuto garantire. Guardi, venerdì scorso abbiamo fatto con Giulio Seppelli una puntata in cui tra l'altro criticavamo questa, cioè no lezioni del mondo anglosassone che è ancora drogatissimo, è tornato a comprare la droga finanziaria, i giardinetti della City e di Wall Street come prima, più di prima, per cui lì lezioni non ne accetto. Però mi dica una cosa, ed è l'ultima domanda che ho per lei perché abbiamo 2 minuti, il fatto che questo non pesi, no, che tu hai un paese che su questo fronte è un paese ricco, competitivo soprattutto, ma niente, passa solo l'immagine mandolino e pizza, è dovuta all'egemonia culturale, come direbbero i sociologi, per cui noi contiamo nulla, non creiamo noi modelli, i paradigmi, o a che cosa? È dovuta senza dubbio a un'egemonia culturale che non è la nostra, è quella del mondo finanziario anglosassone, che ha permeato peraltro anche la nostra stessa per molto tempo, inculcando concetti che spesso sono totalmente scentrati. Poi abbiamo anche una sottomissione che si poteva forse comprendere nel passato, quando non avevamo niente da difendere, casomai dovevamo soprattutto autocriticarci per i nostri punti di debolezza, ma qui ormai sono in gioco i nostri risparmi, qui c'è una guerra mondiale del debito, se non tiriamo fuori gli attributi, le unghie allora il debito pubblico americano pro capite, pensate che in Italia e America vengono lezioni, era bassissimo nel 95, era $19,000 per abitante, il nostro era di €20,000 per abitante. Adesso il nostro è salito a €31,000, ma quello americano si è triplicato ed è $49,000, €38,000. Allora, come si può, di fronte a queste cifre, continuare a usare solo il rapporto debito-PIL? Sono d'accordo, anche perché il nostro debito, che è altissimo, però è cresciuto meno, perché abbiamo fatto meno cavolate, anche come paese, mi riferisco alle bolle immobiliari, le bolle bancarie, di altri paesi. Come dire che noi partivamo con la febbre a 40, però noi ce l'abbiamo a 40 e mezzo, altri paesi che erano a 36 sono arrivati a 39. Ora, dei due, un medico si preoccuperebbe anche di questi aumenti di febbre molto più sostenuti dei nostri. Professor Forti, io la ringrazio come sempre, perché con lei mi diverto a parlare di cifre e numeri e dati di fatto, non ragionamenti così e orientamenti culturali. Grazie Marco Forti, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata a voi in ascolto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.